Provo un sentimento che forse è stupido e sbagliato, rispose Dorotea con la consueta franchezza. Quasi vorrei che la gente di qui avesse più bisogno d'aiuto. Ho conosciuto così pochi modi di rendere la mia vita utile a qualcosa. Naturalmente le mie concezioni di utilità devono essere limitate. Devo imparare i nuovi modi di aiutare la gente. Senza dubbio, disse Mr. Casabo, a ciascuna posizione sociale corrispondono dei doveri. I vostri, come signora di Lowick, spero che non lasciano alcun desiderio insoddisfatto. Infatti, lo credo, disse Dorotea con sincerità. Non pensate che sia triste? Così sta bene, ma se non siete stanca per tornare a casa, percorreremo una strada diversa da quella per cui siamo venuti. Dorotea non era minimamente stanca e fecero una piccola deviazione verso un bel tasso, la principale gloria ereditaria del parco su questo lato della casa. Mentre si avvicinavano ad esso, una figura, ben rilevata contro uno sfondo scuro di sempreverdi, se ne stava seduta su una panchina intenta a fare uno schizzo dell'annoso albero. Mr. Brooke, che procedeva in testa assieme a Celia, volse il capo e disse: «Chi è quel giovanotto, Casabon?» Gli erano ormai vicinissimi quando Casabon rispose: «Quello è un mio giovane parente, un secondo cugino, in realtà il nipote», aggiunse guardando Dorotea, «della signora di cui avete notato il ritratto, mia zia Giulia». Il giovanotto aveva posato il suo album per schizzi e si era alzato. I folti riccioli castano chiari, oltre che l'età, fecero riconoscere subito in lui la persona apparsa Celia. «Dorotea, lasciate che vi presenti mio cugino, Mr. Ladislav Will, Miss Brooke». Il cugino adesso era a così poca distanza che quando si sollevò il cappello Dorotea vide due occhi grigi piuttosto vicini, un naso delicato e regolare con una piccola increspatura e una chioma che ricadeva all'indietro. Ma la bocca e il mento erano di un tipo più prominente e minaccioso di quelli della miniatura della nonna. Il giovane Ladislav non credette necessario sorridere, come se fosse stato affascinato da questa presentazione alla sua seconda cugina e ai suoi parenti. Invece mostrò un'aria imbronciata di scontentezza. «Siete un artista, vedo», fece Mr. Brooke raccogliendo l'album di schizzi e rivoltandolo col suo fare poco cerimonioso. «No, faccio solo qualche schizzo. Lì non c'è niente che valga la pena vedere», disse il giovane Ladislav, arrossendo forse più per stizza che per modestia. «Oh, andiamo, questo è un bel pezzo, ecco. Anch'io ho fatto qualcosa di questo tipo una volta, sapete? Guardate qui ora, questo è ciò che chiamo una bella cosa, eseguita con quello che usavamo chiamare brio». Mr. Brooke volse verso le due ragazze un grande schizzo a colori di un terreno sassoso con degli alberi e un laghetto. «Non sono in grado di giudicare queste cose», disse Dorotea, non con aria fredda, ma con impaziente disapprovazione per essere stata chiamata in causa. «Lo sapete, zio, non riesco a vedere la bellezza di quei quadri che ritenete tanto lodati. Sono un linguaggio che non capisco. Suppongo che vi sia un qualche rapporto fra i quadri e la natura che io sono troppo ignorante per sentire. Proprio come voi capite cosa significa una frase greca che a me non dice niente». Dorotea alzò lo sguardo verso Mr. Casabo, il quale chinò il capo verso di lei, mentre Mr. Brooke diceva, sorridendo con aria indifferente: «Dio mio, ecco com'è diversa la gente! Me ti hanno insegnato in modo sbagliato, sai, altrimenti questa sarebbe proprio una cosa per ragazze, fare schizzi, le belle arti e così via. Ma tu ti sei data a disegnare progetti? Non capisci la morbidezza e quel genere di roba? Voi verrete a casa mia, spero, e vi mostrerò cosa ho fatto in questo campo», proseguì rivolto al giovane Ladislav, che fu quindi distolto dalla sua assorta osservazione di Dorotea. Ladislav aveva concluso che doveva essere una ragazza sgradevole, dato che stava per sposare Casabo, e ciò che essa aveva dichiarato sulla propria ignoranza in materia di pittura avrebbe confermato quell'opinione, anche se l'avesse creduto. Nella fattispecie, egli prese le parole di lei per un giudizio nascosto e fu sicuro che essa considerava il suo schizzo esecrabile. Vi era troppa intelligenza nelle sue scuse, se la rideva sia dello zio che di lui. Ma che voce! Era come la voce di un'anima che un tempo fosse vissuta in un'arpa eolia. Doveva essere una delle incongruenze della natura. Non vi poteva essere alcun genere di passione in una ragazza che avrebbe sposato Casabo, ma distolse l'attenzione da lei. E si inchinò a Mr. Brooke per ringraziarlo dell'invito. «Sfoglieremo assieme le mie incisioni italiane», proseguì quell'uomo dall'indole gentile. «Ne ho un numero incalcolabile di quelle cose che tengo in disparte da anni. Uno si arrugginisce in questa parte del paese, sapete? Non voi, Chesebo, voi restate fedele ai vostri studi, ma le mie migliori idee vanno a fondo, in disuso, capite? Voi intelligenti giovanotti dovete guardarvi dall'indolenza. Io sono stato troppo indolente, sapete? Altrimenti avrei potuto avere successo ovunque, una volta. Questo è un ammonimento opportuno, disse Mr. Casebo, ma ora entreremo in casa. Per tema che le signorine siano stanche di stare in piedi. Quando gli ebbero voltato le spalle, il giovane Ladislav si sedette per continuare il suo schizzo e così facendo il suo volto assunse un'espressione divertita che aumentò mano a mano che egli continuava a disegnare, finché non buttò indietro il capo e non scoppiò in una sonora risata. In parte era l'accoglienza riservata alla sua produzione artistica a divertirlo, in parte l'idea del suo severo cugino nelle vesti di innamorato di quella ragazza e in parte il modo in cui Mr. Brooke aveva definito il posto che avrebbe potuto occupare se non ne fosse stato impedito dall'indolenza. Il senso del ridicolo illuminò i tratti di Mr. Will Ladislav in modo assai gradevole. Era il puro godimento del comico e non era misto a scherno e a autoesaltazione. A cosa ha intenzione di dedicarsi vostro nipote, Casebo? Disse Mr. Brooke mentre procedevano. Mio cugino, volete dire? Non mio nipote. Ah, sì, cugino, ma a quale carriera, capite? La risposta a questa domanda è penosamente incerta. Lasciata Rugby si è rifiutato di entrare in un'università inglese, dove sarei stato ben felice di mandarlo, e ha scelto quella che devo considerare la condotta anomala di studiare a Heidelberg. E ora vuole tornare di nuovo all'estero, senza alcuno scopo specifico, tranne il fine vago di quella che lui chiama cultura. La preparazione a nemmeno lui sa cosa. Si rifiuta di scegliere una professione. Non ha altri mezzi tranne quelli che voi gli offrite. Suppongo. Ho sempre dato a lui e ai suoi parenti motivo di capire che gli avrei concesso con moderazione ciò che era necessario per dotarlo di un'istruzione erudita e dargli una decorosa posizione sociale. Sono perciò obbligata a soddisfare le attese così suscitate, disse Mr. Casebo, dando alla propria condotta una luce di pura e semplice rettitudine. Un esempio di sensibilità che Dorotea notò con ammirazione. Gli piace viaggiare? Può darsi che diventi un Bruce o un Mungo Park, disse Mr. Brooke. Una volta anch'io avevo quell'idea di me stesso. No, non è minimamente portato per l'esplorazione o l'arricchimento della nostra geognosi. Questo sarebbe un intento particolare che potrei riconoscere con una certa dose di approvazione, anche se non mi feliciterei con lui per una carriera che così spesso termina con una morte prematura e violenta. Ma egli è talmente alieno dal desiderare di conoscere con maggiore accuratezza la superficie della Terra, che ha detto che preferirebbe non conoscere le sorgenti del Niro e che dovrebbero esistere delle regioni sconosciute e conservate come terreno di caccia per l'immaginazione poetica. Beh, c'è un briciolo di verità in questo, disse Mr. Brooke, il quale era certamente dotato di un intelletto imparziale. Temo null'altro che un aspetto della sua trascuratezza generale, l'avversione alla precisione di ogni genere. Che sarebbero un cattivo presagio per lui in ogni professione, civile o religiosa, persino se fosse a tal punto pronto a sottomettersi alla condotta comune da sceglierne una. Forse ha degli scrupoli di coscienza basati sulla sua incapacità, disse Dorotea, che stava tentando di trovare una spiegazione favorevole. Perché la legge e la medicina dovrebbero essere professioni da intraprendere con molta serietà, non vi pare? Da esse dipendono la vita e il patrimonio della gente. Senza dubbio, ma io temo che il mio giovane parente Will Ladislav sia principalmente spinto nella sua avversione per queste professioni da un'antipatia per l'applicazione continua e per quel genere di istruzione che ne è il necessario strumento, ma che non è affascinante o immediatamente invitante per un temperamento indulgente verso se stesso. Con lui ho insistito su ciò che Aristotele ha affermato con ammirevole brevità, che per compiere ogni opera considerata come un fine, deve esserci un precedente esercizio di molte energie o capacità di ordine secondario che richiede pazienza. Gli ho indicato i miei volumi manoscritti, che rappresentano il lavoro di anni in preparazione di un'opera non ancora compiuta, ma invano. A un ragionamento ordinato di questo genere, egli ribatte definendo se stesso Pegaso e ogni forma di lavoro imposto Pastoia. Celia rise. Rimase sorpresa nello scoprire che Mr. Casebo potesse dire qualcosa di assai divertente. Beh, sapete, può darsi che diventi un Byron, un Chatterton, un Churchill, roba del genere. Non si può mai dire, fece Mr. Brooke. Lo lascerete andare in Italia o dovunque altro voglia andare? Sì, ho acconsentito a concedergli un modesto assegno per un anno o giù di lì. Non mi chiede altro. Lascerò che affronti la prova della libertà. Questo è molto generoso da parte vostra, disse Dorotea, levando gli occhi verso Mr. Casaboy incantata. È nobile. Dopotutto uno può davvero avere in sé qualche vocazione che non è del tutto chiara neppure a lui, non ti pare? Uno può apparire ozioso e debole. Perché sta crescendo. Dovremmo avere molta pazienza gli uni con gli altri, penso. Io suppongo che sia il fatto di essere fidanzata che ti induce a pensare che la pazienza è una buona cosa, disse Celia, non appena lei e Dorotea si trovarono insieme da sole mentre si toglievano gli scialli. Vuoi dire che sono molto impaziente, Celia? Sì? Quando la gente non fa e non dice esattamente quello che vuoi. Celia era giunta ad avere meno paura di parlare chiaro con Dorotea da quando questa si era fidanzata. L'intelligenza le sembrava più che mai degna di compassione. Capitolo 10. Il giovane Ladislav non compì la visita a cui Mr. Brooke lo aveva invitato e solo 6 giorni dopo Mr. Casaubon accennò che il suo giovane parente era partito per il continente, dando l'impressione, con la sua fredda genericità, di voler evitare domande. In effetti, Will si era rifiutato di precisare una qualsiasi destinazione all'interno dell'intera area dell'Europa. Il genio, così sosteneva, è necessariamente intollerante ai ceppi. Da un lato deve avere la massima libertà d'azione per la propria spontaneità, dall'altro può fiduciosamente attendere dall'universo quei messaggi che lo convocano a compiere la sua opera particolare, solo ponendosi in un atteggiamento ricettivo a ogni sublime occasione. Gli atteggiamenti ricettivi sono svariati e Will ne aveva sinceramente assunti molti. Non andava proprio pazzo per il vino, ma varie volte ne aveva bevuto troppo, semplicemente per sperimentare quella forma di estasi. Aveva digiunato fino a svenire e poi aveva cenato a base di aragosta. Si era ammalato prendendo dosi di oppio. Da queste misure non era sortito nulla di assai originale e gli effetti dell'oppio l'avevano convinto che c'era una differenza enorme fra la sua costituzione e quella di De Quincey. Quell'ulteriore circostanza che avrebbe fatto sviluppare il genio non si era ancora presentata, l'universo non gli aveva ancora fatto cenno. Persino la fortuna di Cesare a un certo momento non fu che un presentimento di grandezza. Sappiamo che messa in scena sia ogni sviluppo e che forme reali si possono celare in inermi embrioni. In effetti, il mondo pullula di incoraggianti analogie e di belle uova dall'esito incerto chiamate possibilità. Will vedeva con sufficiente chiarezza i pietosi esempi di una lunga incubazione, al cui termine non c'era alcun pulcino, e se non fosse stato per la gratitudine avrebbe riso di Casaubon, la cui monotona diligenza, le cui sfilze di quaderni di appunti e la cui esigua luce di dotta teoria che esplorava le spallottate rovine del mondo sembravano incoraggiare moralmente la generosa fiducia di Will nelle intenzioni dell'universo riguardo a se stesso. Egli sosteneva che quella fiducia era un segno del genio. Certo, non è segno del contrario. Il genio non consiste né nella presunzione né nell'umiltà, ma nella capacità di compiere o fare, non una qualsiasi cosa in generale, ma qualcosa in particolare. Quindi, che parta per il continente senza che ci pronunciamo sul suo futuro. Tra ogni genere di sbaglio, la profezia è il più gratuito. Ma al momento attuale questo ammonimento contro un giudizio troppo precipitoso mi interessa più in rapporto a Mr. Casaubon che al suo giovane cugino. Se per Dorotea Mr. Casaubon era stato la semplice occasione che aveva incendiato il delicato materiale infiammabile delle sue illusioni giovanili, ne segue forse che fosse giusta l'idea che di lui avevano quei personaggi meno entusiasti, che finora hanno espresso il loro giudizio nei suoi confronti. Io mi oppongo ad ogni conclusione definitiva, a qualsiasi pregiudizio che tragga alimento dal disprezzo di Mrs. Cadwallader per la presunta grandezza d'animo di un prete suo vicino, dall'opinione sfavorevole di Sir James Chatham per le gambe del proprio rivale, dall'incapacità di Mr. Brooke di strappargli delle idee simili alle proprie o dalle critiche di Celia per l'aspetto personale di uno studioso di mezza età. Io non so se il più grand'uomo del proprio tempo, se mai esistette quel sommo solitario, sia potuto sfuggire a questi riflessi sfavorevoli in tanti piccoli specchi. E persino Milton, alla ricerca della propria immagine in un cucchiaio, deve adattarsi a vedervi l'aspetto di un bifolco. Inoltre, se Mr. Casebo, parlando in proprio favore, ha una retorica piuttosto raggelante, non si può per questo essere certi che non sia capace di agire bene o non sia dotato di sentimenti delicati. Forse che un fisico immortale e interprete di geroglifici non scrisse dei versi esecrabili? Modi garbati e tatto verbale hanno forse contribuito allo sviluppo della teoria del sistema solare? Supponiamo di accantonare i giudizi altrui su un uomo, per indagare con interesse più attento su quale è il resoconto della sua coscienza, sulle sue azioni o le sue capacità. Con quali intralci egli compie le proprie fatiche quotidiane, con quale svanire di speranze o quale infittirsi di illusioni gli anni lo segnano dentro, e con che spirito egli si batte contro l'oppressione dell'universo, che un giorno sarà troppo forte per lui e finirà per fermare il suo cuore. Senza dubbio, ai suoi occhi, il suo destino è importante, il motivo principale per cui pensiamo che chieda uno spazio troppo ampio nella nostra considerazione deve essere la nostra mancanza di spazio per lui, dato che lo affidiamo alla cura divina con perfetta fiducia. Anzi, è addirittura ritenuta cosa sublime che il nostro prossimo colà si aspetti il massimo, per quanto poco egli possa aver ottenuto da noi. Anche Mr. Casebo era il centro del proprio mondo. Si era portato a credere che la provvidenza avesse creato altre persone per lui e soprattutto a considerarle in quanto adatte all'autore di una chiave di tutte le mitologie. Questo tratto non c'è del tutto estraneo. E come le altre speranze mendiche dei mortali, ha diritto a un po' della nostra compassione. Certo, questa storia del suo matrimonio con Miss Brooke lo toccava più intimamente di quanto non toccasse qualsiasi persona che finora avesse dimostrato la propria disapprovazione verso di esso, e allo stato attuale delle cose provo una maggiore tenerezza per la sua esperienza di vincitore che per la delusione dell'amabile Sir James. Perché a dire il vero, con l'approssimarsi del giorno fissato per le nozze, Mr. Casebo si rendeva conto che il suo stato d'animo non stava migliorando, né la contemplazione di quel giardino nuziale in cui, come l'esperienza di tutti mostrava, il sentiero doveva essere bordato di fiori, gli si dimostrava di un fascino più persistente dei sotterranei in cui si aggirava con un cero in mano. Non confessava a se stesso, e ancora meno avrebbe potuto farlo a un altro, la propria sorpresa per il fatto che, sebbene avesse conquistato una ragazza bella, e di animo eletto. Tuttavia, non aveva conquistato la felicità, che aveva pure considerato un oggetto da trovare con la ricerca. È vero che conosceva tutti i passi dei classici che suggerivano il contrario, ma la conoscenza di brani classici, ce ne rendiamo conto, è una forma di movimento, il che spiega il perché essi lasciano una così esigua energia in sovrappiù per la loro applicazione personale. Il povero Mr. Casebo aveva immaginato che il suo lungo celibato di studioso gli avesse messo in serbo un interesse composto di gioia e che grosse tratte sul suo affetto non avrebbero mancato di venire onorate. Perché i pensieri di tutti noi, seri o allegri, vengono a impigliarsi nelle metafore e agiamo fatalmente in base ad esse. Ed ora egli correva il rischio di venire rattristato proprio dall'idea di trovarsi in una situazione insolitamente felice. Non vi era nulla di esteriore che potesse spiegare un certo vuoto di sensibilità che lo sopraffaceva proprio quando la sua ansiosa felicità avrebbe dovuto essere più intensa, proprio quando passava dall'abituale monotonia della sua biblioteca di Lowick alle sue visite alla Grange. Ecco una faticosa esperienza nella quale era completamente condannato alla solitudine, come nella disperazione che talvolta lo minacciava mentre si dibatteva nel pantano della sua opera, senza parere più vicino alla meta. E la sua era quella solitudine fra le peggiori, che si ritraeva dalla compassione. Non poteva non desiderare che Dorotea lo considerasse non meno felice di quanto il mondo si sarebbe aspettato che fosse, in quanto suo fortunato corteggiatore, e per quanto riguarda la composizione della sua opera, egli contava sulla fiducia e la venerazione giovanile di Dorotea. Gli piaceva suscitare in lei nuovo interesse nell'ascoltarlo, come mezzo di incoraggiamento per se stesso. Parlando con lei, egli presentava tutta la sua esecuzione di intenzione, con la fiducia riflessa del pedagogo, e per il momento si sbarazzava di quel raggelante pubblico ideale che affollava le sue faticose, sterili ore con la caliginosa oppressione di ombre del Tartaro. Infatti, per Dorotea Dopo quella storia del mondo giocattolo adattata per signorine che aveva costruito la parte principale della sua istruzione, i discorsi di Mr. Casaubon sulla propria grande opera erano pieni di nuove prospettive, e questo senso di rivelazione, questa sorpresa di fronte a una profonda conoscenza degli stoici e degli alessandrini, come persone che avevano avuto idee non del tutto dissimili dalle sue, tenne sopita per il momento la sua consueta sete di una teoria vincolante che fosse in grado di mettere la vita e le dottrine di Leinster in rapporto con quel sorprendente passato e fare in qualche modo pesare sulle sue azioni le fonti più remote della conoscenza. Quell'insegnamento più completo sarebbe arrivato, Mr. Casaubon le avrebbe detto tutto. Essa pensava piena di ansia a quell'iniziazione superiore alle idee, come attendeva con ansia il matrimonio e mescolava le proprie immagini indistinte di entrambi. Sarebbe un grande errore supporre che a Dorotea sarebbe piaciuto condividere il sapere di Casaubon per farsene un semplice vanto. Infatti, sebbene nei dintorni di Freshitt e Tipton la gente l'avesse definita intelligente, un tale epiteto non sarebbe stato esatto per descriverla a quelle cerchie nel cui vocabolario più rigoroso l'intelligenza consiste nella semplice attitudine al conoscere al fare, indipendentemente dal carattere. Tutta la sua brama di acquisizione intellettuale era all'interno di quell'ampia corrente di simpatia in cui le sue idee e i suoi impulsi venivano di solito trascinati. Non desiderava fare della conoscenza un ornamento da indossare, staccato dai nervi e dal sangue che nutrivano le sue azioni. E se avesse scritto un libro, lo avrebbe dovuto fare come Santa Teresa, sotto l'imposizione di un'autorità che le forzasse la coscienza. Ma anelava qualcosa grazie alla quale la sua vita avrebbe potuto essere colmata da un'attività a un tempo razionale ardente. E dato che era passato il tempo delle visioni e delle guide spirituali, dato che la preghiera intensificava il desiderio ma non l'istruzione, quale lampada c'era tranne il sapere? Certo, gli uomini dotti conservano l'unico olio, e chi più dotto di Mr. Casaubon? Talché in quelle brevi settimane l'attesa gioiosa e grata di Dorotea fu ininterrotta, e per quanto il suo innamorato potesse rendersi conto in qualche occasione di mancanza di originalità, non poté mai attribuirne la causa a un qualsiasi allentarsi dell'interesse affettuoso di lei.